Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi ricomincia Personal Chef. Allora, che succede? Che ogni settimana tre ascoltatori potranno diventare protagonisti di questa trasmissione con le loro ricette. Per partecipare, inviate la vostra ricetta con l'ingrediente che vi svelerò tra poco all'email gastronauta@radio24.it. Tra le prime 50 ricette che arriveranno ne sceglieremo 3 e le commenteremo sabato prossimo con uno chef qui in studio con noi che vi darà anche dei consigli, e chi ha vinto, appunto, chi viene scelto vincerà un Magnum Franciacorta oltre ai consigli, appunto, che gli daremo durante la trasmissione. Non solo, le ricette migliori saranno anche pubblicate sul sito www.radio24.it. Allora, l'ingrediente di questa settimana, cioè a partire da oggi, sarà il panettone. Bene, devo fare un'aggiunta su questo. Panettone non solo, diciamo, panettone da presentare con salse e con qualche ingrediente, appunto, da aggiungere come dolce finale, ma anche panettone come ricetta, quindi come ricetta, non lo so, in un particolare piatto, quindi allargato a 360 gradi. E voi potrete mandare la ricetta, appunto, dicevo, a gastronauta@radio24.it. Vi prego, oltre all'email, mettete anche il numero di telefono, perché così potremo contattarvi e farvi intervenire in trasmissione. Proprio per questo io chiedo a Luca Colombini, Giovanna Zavattieri e a Enrico Ferrario, che sono i tre vincitori, di collegarsi con noi. 800 24 00 24. Quindi fatevi vivi, perché così vi consegneremo anche idealmente il premio e vi faremo parlare con il nostro ospite in studio, che è Andrea Ferrero, albese, quindi di Alba, diciamo che di tartufo se ne intende, chef dell'Hotel Bulgari di Milano. Buongiorno Andrea. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Bene, devo dire che è molto cattivo, perché ho visto che ha preso appunti sulle ricette, le tre ricette che abbiamo scelto, quindi ne vedremo delle belle. Allora Andrea, ma tu che rapporto hai col tartufo? Su quale ricetta in particolare lo consigli? No, delle tue prime. Guarda, io sono molto tradizionale nelle mie ricette, quindi nell'uso del tartufo. Essendo un albese, guai a toccarcelo, e quindi le ricette sono le più tradizionali, dall'uovo al risotto, ai tagliolini, poche altre, una battuta all'albese con olio e sale senza aggiungerci limone, quindi alimenti delicati per esaltare il tartufo, appunto. Quindi tu dici che ricette stravaganti sicuramente non vanno bene. Come hai trovato in generale queste tre ricette che sono state scelte tra le 50? Cioè, un brevissimo commento, perché poi dopo pian piano passeremo nei particolari. No, tre ricette bellissime, tre ricette molto differenti da una all'altra, no? Perché una vedo che è più creativa, un'altra molto tradizionale, l'altra leggermente creativa, quindi un bel mix. Bene, ne discuteremo, ma ora parleremo anche di tartufo, e io vi invito, cari radioascoltatori, intervenite sul tartufo, diteci cosa ne pensate, magari parliamo di prezzo che è troppo caro, come si trova, quali sono i mercati, insomma, quali sono i più pregiati. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ma cominciamo anche con degli ospiti, perché avremo tanti ospiti. Io voglio cominciare con Michele Mosca. Con Michele Mosca, è un giovane che diciamo quest'anno ha il record incredibile di aver trovato un tartufo da un chilo, diciamo che a Gubbio, quindi lui è della zona di Gubbio, dove una zona famosa per il tartufo. In questo momento è in fiera a Milano, sentiamo anche già la confusione, però gli voglio chiedere, caro Michele, ma qual è stata l'emozione quando ti sei trovato tra le mani un tartufo da un chilo? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. L'emozione c'è stata, perché avendo aperto da poco, e quindi essermi messo su questo settore da poco, è stata una cosa nuova, ce n'è stata tantissima. Senti, ma poi l'avete venduto questo tartufo? Sì, è stato spedito in Arabia Saudita e l'abbiamo spedito entro 3 giorni. Ma l'avete spedito a un emiro? Sì, tramite un contatto italiano e poi è partito per l'Arabia Saudita. Ecco, la cosa particolare è che voi fino, diciamo, a questa scoperta non è che facevate di mestiere i trifulao, come dicono in Piemonte, o i cavatori di tartufo, come dicono da altre parti. Ok, il mio socio sì, faceva il cavatore di tartufi, però se no questo settore per noi è nuovo. Ecco, quanti anni hai tu? Io ho 26 e il mio socio 31. Diciamo che il nome del tuo socio, che facciamogli pubblicità, Luca Millucci. Senti, ma quindi diciamo che può essere anche una nuova attività per voi due questa? Sicuramente, l'abbiamo fatto innanzitutto per sfidare questo momento di crisi e non star lì fermi a farci succhiare da questo periodo buio. Abbiamo provato, se va va bene, se no si riparte un'altra volta. Bene, bene, io ti ringrazio, grazie, a presto. Grazie, a lei, presto. È stato un piacere, buongiorno. E beh, devo dire che è arrivato già un SMS e dice: non potevate scegliere qualcosa di meno caro per la vostra ricetta ideale? Beh, è tempo di tartufi, scegliamo i tartufi, la prossima volta avremo il panettone e poi nelle altre due non svelo quale sarà sicuramente il segreto. Ma sentiamo già un radioascoltatore, Luciano da Pescara. Buongiorno Luciano. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere questo: quali sono le ricette più performanti per quanto riguarda il pesce col tartufo? Perché non trovo granché nei ristoranti. Ecco, guardi, abbiamo Andrea Ferrero qui con noi, che è chef dell'Hotel Benissimo. Bulgari, e ci facciamo rispondere se c'è qualcosa che tu hai mai fatto col pesce. Le ricette, guarda, io sceglierei un pesce dalla carne grassa, forse una ricciola o forse anche un branzino di grado. Eviterei cotture alla piastra, comunque in padella o al forno, perché comunque provocano dei sapori, comunque delle note aromatiche che forse si mettono in contrapposizione con quella che è quella del tartufo. Un crudo di ricciola con appena dell'olio e forse del sale, del tartufo bianco fopa, si potrebbe adattare, contando che da buon piemontese non ci vedo molto il pesce con il tartufo, però io penso che un branzino con una leggera mousseline di patate o comunque una leggera purè di patate e del tartufo bianco sopra potrebbe andare benissimo, però branzino cotto al vapore. Bene, riprenderemo da questo pesce e tartufo, un tema molto interessante. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo. Beh, io voglio riprendere un secondo il discorso pesce e tartufo, perché caro Andrea, io ho la passione acciughe e tartufo, quindi credo che magari, ecco, qualcuno interverrà e dirà: ma cosa sta dicendo? Ebbene, io credo di sì, credo che sia un grandissimo accostamento. Ti vedo molto perplesso. Sì, un po'. Non ho mai provato acciughe e tartufo. Ti posso dire che abbiamo nella tradizione, anche noi piemontese, abbiamo la bagna cauda. Non ho mai provato a fare la bagna cauda con il tartufo, quello no. Possiamo provare, non... Beh, senza aglio però, Senza aglio, ma chiaramente. Bene, bene, continuiamo. Numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire. Bene, ecco, finalmente, vedo sul mio schermo che abbiamo una dei tre vincitori. Buongiorno Giovanna Zavattieri, buongiorno Giovanna. Buongiorno, Davide. Bene, ha vinto con fagottini di pasta all'uovo con tuorlo e tartufo. Prima di passare la palla, diciamo, ad Andrea, che ci farà un commento sulla tua ricetta, tu che mestiere fai? Fai la cuoca? No, però sono appassionata, ho una figlia che fa l'alberghiero, per cui ci scambiamo le ricette. Ecco, di dove sei? Io sono di Palermo, però vivo ad Assisi. Bene, allora vivi in Umbria, quindi ecco perché si spiega, caro Andrea, il tartufo nero, ecco perché. Allora, ti dicevo infatti che secondo me c'era qualcosa. Bene, Andrea, cosa ne pensi di questa ricetta? Magari dai dei consigli a Giovanna per migliorarla. No, Giovanna, complimenti per la ricetta, perché è veramente interessante. Grazie mille. Secondo me era la ricetta che più si adattava al tartufo bianco. Perché in pratica hai messo il tuorlo, che il tuorlo con il tartufo bianco crea una cremosità in bocca, una delicatezza molto adatta ad esaltare appunto le molecole di sapore del tartufo. Avrei due cose. Perché tartufo nero? Quindi, perché chiaramente viene dall'Umbria, da Assisi, e quindi la spiegazione è quella. Avrei forse usato un formaggio leggermente più cremoso, non avrei usato forse una ricotta, anche se... La ricotta è molto neutra nel sapore, avrei usato un sapore leggermente più accentuato di una ricotta di vaccino. delle tre credo che sia la più adatta. Non avrei messo il burro chiarificato, avrei messo forse un'emulsione con del burro e del brodo di gallina. Burro chiarificato lo userei per altre preparazioni che non si adattano forse alle salse, perché dà molta grassosità, dà molta untuosità al piatto, e già con tuorlo d'uovo credo che la cottura sia minima che date in forno al tuorlo d'uovo, e quindi il tuorlo d'uovo dovrebbe rimanere crudo, no? Non è così? Giovanna, sei ancora in linea? Sì, sono in linea. Ti ha fatto una domanda Andrea? Sì, stavo rispondendo, forse il tono troppo basso. No, dicevo che è leggermente cotto al forno per 5 minuti, sì, una cottura leggera rimane. Sì. Quindi eviterei forse il burro chiarificato, metterei più un'emulsione tra burro e un brodo di gallina e poi delle scaglie di tartufo sopra. Eviteremo. Okay. Bene, grazie. Allora tu hai vinto un Magnum Franciacorta di OCG che ti arriverà direttamente. Grazie mille. Devo dire che ho, diciamo, creato veramente un pandemonio. Tutti mi scrivono contro il mio abbinamento acciughe e tartufo. Beh, provate per credere. Magari le acciughe non sott'olio, le acciughe probabilmente che siano state sotto sale. Provate, perché il sale è un grande esaltatore di sapore. E quindi provatelo, poi mi direte. Vedo che ce ne sono 4-5 che tutti mi danno addosso. Ma io voglio chiedere a Nino Di Costanzo, famoso chef del Mosaico di Ischia, 2 stelle Michelin. Buongiorno Nino. Buongiorno Davide. Sei a Ischia? Io sono appena rientrato ieri sera, sì. Ma no, sta nevicando anche lì come a Milano oppure tutto? No, quel tempo non è la... Io poi vengo da Barcellona, Dubai, ho fatto un giro abbastanza lungo, quindi ritornare in Italia con un freschino così un po' di ebbrezza ci vuole. Senti Nino, ti ho chiamato perché tu vivi in un'isola, quindi il pesce, diciamo, anche se tu fai una cucina completa, però il pesce è di casa da te. E parlavamo appunto di tartufo e pesce. Io ho lanciato un'idea, acciughe e tartufo, ma vedo che le ho tutti contro. Anche tu sei contro un abbinamento? No, assolutamente no. Gli abbinamenti che possono sembrare un po' più strani per quanto riguarda il tartufo, secondo me sono migliori. Il pesce con le acciughe io l'ho provata, e tu hai detto una cosa veramente molto giusta: non le acciughe sotto sale, sì. Cioè non le acciughe sotto olio, ma sì, le acciughe sotto sale. Quindi fatte marinare per un'oretta con un sale leggermente aromatizzato con delle erbe, con delle spezie, risciacquarle, un filo d'olio, che secondo me l'olio del tartufo è veramente straordinario. È veramente un abbinamento che va veramente alla grande. Beh, rimani con noi perché ora voglio lanciare, diciamo, qualche sfida. Allora, chi è a favore, chi è contrario può intervenire. Non solo, ma in Italia ci sono due partiti, tartufo nero e tartufo bianco, perché diciamo che sono due cose completamente diverse, ma un po' l'Italia è divisa anche da aree di produzione. Quindi chi pro e chi contro il tartufo bianco nero intervenga in trasmissione per discutere assolutamente di questo. Vedo che comunque gli altri due vincitori, lo ripeto, Luca Colombini e Enrico Ferrario, se sono in linea per cortesia intervenite, che discuteremo della vostra ricetta. Numero verde 800 24 00 24, perché così altrimenti vi faremo migliorare la ricetta. Nino, tu nel periodo invernale del tartufo sei chiuso, il tuo ristorante a Ischia è chiuso, ma tu ultimamente sei entrato un po' nel mondo del tartufo ad Alba, e volevo chiederti, ma tu quale piatto prepareresti con il tartufo? Davide, ti dico, io cerco sempre, essendo molto all'estero nel periodo invernale, cerco sempre di portare avanti un discorso di Made in Italy, ma soprattutto con tradizioni e prodotti del mio territorio. Sto abbinando moltissimo il tartufo bianco, almeno in questo periodo, con i prodotti caseari di bufala, quindi mozzarella di bufala, ricotta di bufala, fior di latte, pasta di Gragnano, logicamente. E veramente sono degli abbinamenti molto riusciti. E l'altro giorno proprio, eravamo a Barcellona per lavoro, abbiamo fatto un dessert con un tartufo, con un panettone all'olio extravergine di oliva, senza candite, senza uvetta, con una spuma di latte di bufala e del tartufo. Ecco, tu hai già dato una ricetta per la prossima puntata, ma poi rimani con noi perché torneremo su questo argomento, lo sentirò anche Andrea. Ma intanto Fulvio da Torino, radioascoltatori. Buongiorno Fulvio. Ah, buongiorno a lei, buongiorno, grazie che mi ha chiamato. Dica. Volevo solo dare un minuscolo contributo storico, perché Io ho 59 anni, mia nonna era di inizio dell'altro secolo ovviamente, ed essendo cuneesi mia nonna mi raccontava che bagnavano abitualmente in stagione il tartufo nella bagna cauda come usavano il tupinambò, la patata bollita, come un tubo ordinario, quando il tartufo non aveva la notorietà e naturalmente il prezzo di oggi. Eh beh, quindi hai sentito Andrea, tu che sei piemontese, sì. Cosa ne pensi? Ovviamente nella bagna cauda... Chiaramente sono di un'altra generazione, quindi sono stata abituata a vedere il tartufo sotto altri occhi. Il tapinambur lo vedo bene, ma perché dà una freschezza in bocca che alla bagna cauda serve. Con la bagna cauda si usano principalmente verdure crude, appunto per contrastare l'untuosità della bagna cauda con qualcosa di fresco, qualcosa di croccante. Non ho mai provato il tartufo, dovrò provarlo quando ne troverò uno bello grande. E poi ci dirà, bene, ricordo sempre il numero verde 800 24 00 24, discutere di questo argomento. Nino, volevo chiederti, poi lo chiedo anche a Andrea, ma tartufo e cioccolato, voi hai parlato di dolci, può essere, ci può trovare qualche combinazione? Sicuramente sì, Davide, bisogna sempre studiare un prodotto maggiormente caldo, perché il tartufo si esprime soprattutto con dando una leggera temperatura o una leggera o un'intensa temperatura molto calda. Sicuramente può andare senza nessun problema. Può andare da un soufflé, per esempio, un soufflé al cioccolato sarebbe veramente meraviglioso, e non parlo di cioccolato bianco, parlo di cioccolato fondente. Cosa ne pensi, Andrea? No, sono d'accordo. Il tartufo e cioccolato è un abbinamento lussuoso. Lussuoso, tu dici. Voluttuoso. Sì, ecco, vedi, c'è un altro radioascoltatore che dice i tartufi in questo momento sono molto cari, e così parlare di una cosa di questo genere in questo momento non va bene. Beh, sentiremo anche i prezzi, perché quest'anno ci sono alcuni prezzi, però abbiamo sentito prima che quel tartufo da un chilo non è rimasto in Italia, è andato negli Emirati, quindi devo dire a questi radioascoltatori che insomma questo è il Made in Italy, giova il Made in Italy, e questi due ragazzi credo che avendo trovato questo tartufo insomma magari hanno potuto tirare respiro per qualche tempo, quindi credo che sì, sia molto caro sul mercato, come dicevo quest'anno è meno caro degli altri anni, però è vero, costa sempre molto molto caro il tartufo. Sentiamo Mario da Brugherio, un altro radioascoltatore. Sì, buongiorno. Prego Mario. La mia ricetta è capesante, 1000 foglie di capesante con tartufo. Un goccio d'olio appena appena, delizioso. Mario, lei è un ristoratore? No, io sono un appassionato di cucina. Ah, se lo fa a casa questo? Se lo fa, certo. La prossima volta partecipi allora al nostro concorso. Il prossimo tema è il panettone, così magari, visto la sua competenza, si può anche vincere. Cosa ne pensi, Andrea, di capesante e tartufo? Mi piace l'idea del capesante e tartufo. Vanno scelte con cura, perché devono essere freschissime, perché sennò la capesante ha subito un sapore pungente, quindi coprirebbe secondo me il tartufo invece di complementarlo e esaltarlo, però buonissime, sì, d'accordo. Io ho dichiarato guerra alle capesante, perché ormai, cari chef, mi rivolgo a Nino e mi rivolgo a te, si trovano ovunque, quasi a voler giustificare i prezzi di certi piatti, mi spiace dirlo ma è così. Vedo certi risotti con sopra una capesante sdraiata, sembra che prende il sole, sembra che sia appunto in riva al mare. Nino, tu cosa ne pensi, capesante e tartufo? Io sinceramente non ne uso capesante, perché non fa parte proprio del mio territorio, della mia tradizione. Potrebbe andare facendoci una arrostendola bene entrambi i lati, quindi lasciando il cuore quasi completamente crudo. Potrebbe andare sicuramente bene con magari un sedano rapa, un qualcosa che comunque sia neutrale fra questi due elementi. Bene, c'è un SMS molto provocatorio che mi chiede: è il tartufo con la pizza? Bene, caro radioascoltatore, a Hollywood c'è una pizzeria che si chiama Spago, di Wolfgang Puck, che è un noto chef austro-americano, il quale ha fatto la sua fortuna facendo la pizza al tartufo, la pizza al caviale, la pizza alle ostriche. È una diavoleria, chiamiamola così. È un contrasto molto forte, per tornando a diciamo agli SMS che abbiamo letto, insulto alla povertà, credo di sì, perché la pizza di solito è un prodotto povero, però ci sono alcuni che fanno questo, quindi per carità, non so quanto possa costare, però credo, Andrea, che ci sia libertà di poterlo fare, no? No, essendo la pizza uno dei miei piatti preferiti in assoluto, sì, io lo vedo bene, lo vedo un po' provocativo, un po' azzardato, però lo vedo bene. Bene, grazie, passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, ai radioascoltatori che hanno telefonato, prego di rimanere in linea perché ora c'è uno stacco abbastanza lungo. La linea, anche un saluto a Nino Di Costanzo, ciao Nino. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tartufo. Io faccio ancora una volta l'appello a Enrico Ferrario e a Luca Colombini, che hanno vinto, diciamo che le loro ricette sono state scelte per intervenire, così commenteremo, se no dovremo commentare le ricette, far commentare le ricette, però senza la presenza viva degli autori, che tra l'altro hanno vinto un Magnum Franciacorta di OCG. Ma sentiamo Francesco da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a lei. Non vorrei sembrare un adulatore del conduttore, ma a me il binomio tartufo acciughe fa impazzire, insomma. Beh, la ringrazio. Con delle varianti che io uso spesso a Capodanno al cenone come antipasto. Ci aggiungo del peperoncino, del prezzemolo e poi un soffio di provola affumicata. Va al forno ed è un mangiare da Dio. Però come alternativa io lo faccio spesso, non solo a Capodanno, come primo piatto, aggiungendo un pomodoro, insomma, tipico pomodorino del pendolo qua. Senta Francesco, ma lei è un appassionato cuoco oppure fa... Guardi, io sono diplomato alla scuola alberghiera, però nella segreteria di amministrazione, poi virai a 20 anni mi sono laureato in legge, quindi faccio ben altro. Bene, comunque mi faranno vedere la pensione, avrei intenzione di aprirmi una piccola trattoria. Senta, ma difende i consumatori quando vengono avvelenati da qualche ristoratore oppure... No, assolutamente, sono un semplice impiegato, guardi, quindi faccio ben altro. Ho la passione della cucina, amo cucinare, mi piace mangiare. È una mia battuta. Bene, abbiamo con noi Mauro Carbone, che è direttore del Centro Nazionale Studi sul Tartufo di Alba. Ma io voglio chiedere, Mauro, voglio chiederti questo. Innanzitutto, quali sono i prezzi di quest'anno medi al mercato del tartufo di Alba? Ma prezzi molto sotto la media degli ultimi anni, per fortuna, e quindi non siamo mai andati oltre i 3 euro al grammo, ma spesso siamo andati molto sotto. Adesso si trovano anche solo 2 euro. Questo è il momento proprio buono, probabilmente, perché il grosso delle fiere sono finite, Natale non è ancora arrivato, e qui in mezzo si possono comprare appunto tartufi attorno ai 2 euro, 2 euro e mezzo. Considera che questo vuol dire che se uno viene a comprarsi un tartufo da noi si fa un piatto di tartufo, una grattata di tartufo, con meno di 20 euro, che non mi sembra una cifra spaventosa. Senti Mauro, previsioni di durata. Ho sentito che molti sostenevano che forse si arriverà a Natale col tartufo quest'anno. Sì, sicuramente sì, tutti pensano questo, credo che sarà proprio vero. Abbiamo avuto una stagione comunque in ritardo su tutta la produzione agricola, insomma, tutta la natura si è svegliata tardi questa primavera e sta andando a dormire tardi quest'autunno. Quindi sicuramente ottimi tartufi fino a Natale. Devo dire che se la qualità rimane questa, ma non c'è motivo a questo punto perché cambi, è sicuramente la migliore stagione a livello qualitativo degli ultimi 15 anni. Non ricordiamo dei tartufi così profumati come non si sentivano da tantissimo tempo. Bene, rimani con noi Enzo da Rimini, un radioascoltatore. Buongiorno dalla Romagna. Buongiorno. Mi dica. Ah, niente, volevo comunicarti che a Rimini esisteva un ristorante che tu forse conosci, perché se sei un amico di Piero Meldini, Meldini ne ha scritto un libro, che si chiama Il Gnaf. Sì, Le ricette del Gnaf, conosco il libro, allora, il libro. Il Gnaf aveva una ricetta, ma che era famosa per le canocchie col tartufo. Bene, sono contento perché io amo le canocchie, amo il tartufo, ecco, per cui... Ecco, quindi... Il libro si chiama, quello che ha scritto Meldini, e Le ricette del Gnaf. Invece Le ricette del Gnaf di Salvatore Ghinelli si chiamava, che è un novello, è un Artusi vero e proprio, si chiama L'apprendista cuciniere. Bene, Enzo, grazie del tuo grande contributo e un saluto al grande Meldini, storico della gastronomia. Grazie Enzo, grazie, e lo ricordo, è vero, le ricette del Gnaf, me ne ero dimenticato. Bene, io, caro Andrea, visto che Enzo Ferrario non si fa vivo e ha fatto presentato una ricetta quenelle di patata viola con uovo di quaglia su fonduta di raschera e tartufo bianco, fai un commento a questa ricetta. Ebbene, come ricetta secondo me è la più creativa delle tre, o la più estrosa. Diciamo che perché la patata viola, non lo so, forse era meglio una patata desire. Non ci vedo proprio, ecco, lo zenzero lo credo in contrapposizione con tutto quello che possa essere tartufo. Non appartiene al piatto, un elemento secondo me chiaramente, non sapendo cosa volesse raggiungere il Enrico, non lo vedo nel piatto, non lo vedo nella ricetta, un intruso nella ricetta. Bene il raschera, non vedo il parmigiano, la quenelle di patata andrebbe bene solo con burro, sale e basta. Troppi sapori, alla fine certo. Parmigiano in contrapposizione con la raschera, lo zenzero con tartufo non appartiene alla tradizione. Enrico, batti un colpo se sei in linea, ma sentiamo Stefano da Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Stefano. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Io sono un raccoglitore di tartufi, dato che parlavate di tartufi bianchi e tartufi neri, almeno a Reggio Emilia sulle colline, sui 500 metri, noi raccogliamo sia i bianchi che i neri, però non c'è mica paragone tra il bianco e il nero. In più il tartufo, almeno in questo periodo, è il periodo più buono, perché dato che il tartufo fa con la luna di settembre è meno pregiato, quella di ottobre è meno pregiato, e questo qua è più pregiato per quello che si trova più profondo. Senti Stefano, i prezzi, dammi un po' i prezzi della tua zona, anche se non è una zona rinomata. I prezzi nella nostra zona, il tartufo costa 200 euro letto, il bianco, e 200 euro al chilo il nero. Però da bianco a nero, per me il nero non è neanche il tartufo, di realtà io non ci vado neanche, vado solo al bianco. Va bene Stefano, abbiamo solo di gambo di fungo e basta. Abbiamo capito la tua predilezione. Senti, ma diciamo la grammatura che trovate in questa zona, appunto, delle colline di Reggio Emilio? Quest'anno non se ne è trovato tanto, però abbastanza grandi i pezzi, almeno nell'ultima luna questa qua, che ha fatto 30 grammi, 40 grammi, 50 grammi, però il nostro è pregiato come quello di Alba. Certo, è sempre il tuber magnato un picco, per carità, ma quindi le differenze anche di prezzo mi sembra che siano veramente sulla stessa linea. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Gianfilippo da Torino. Buongiorno Gianfilippo. Salve, sono Gianfilippo. Dunque, io ho avuto ieri sera proprio un pranzo con degli amici inglesi e allora ho pensato bene di sfruttare il Piemonte come campo di battaglia e ho fatto dei bignè con la fonduta e tartufo a volontà, e poi ho fatto una bagna cauda senza l'anima dell'aglio, formidabile, una cosa particolarissima che non ha l'idea della bagna cauda vera e propria, però tante persone non amano l'interno dell'aglio. E ho avuto un successone, avevo tre tartufi da sui 50 grammi cada uno, pagati 124 euro al produttore a Isola d'Asti, che è una zona vicino a Alba ma non è Alba, e questo a letto. Sì, ma è l'Astigiano, insomma, siamo sempre nella zona. Monferranto, tra l'altro, è una zona molto pregiata, quindi. Certo, esatto. E questo è quanto. Ho avuto 12 persone e io il tartufo sfrutto anche il nero, l'uncinato, perché sono un appassionato, perché eravamo in 12 a mangiare a casa mia e ne faccio moltissimi pranzi. E adesso volevo provare delle pernici col tartufo sempre, visto che il tartufo quest'anno è abbordabile dal trifulao, cioè trifulao vuol dire raccoglitore. Sì, certo, tartufi. Lo sappiamo. E questo è quanto, niente, volevo solo. Bene, grazie Gianfilippo. Prego, prego. Grazie. Ciao, io voglio tornare da Mauro Carbone, voglio chiedergli questo. Mauro, negli ultimi anni diciamo che il tartufo è fiorito un po' in tutta Italia. Prima erano Acqualagna, era Alba, era San Pietravellana in Molise, era una zona particolare della Romagna, la Toscana in particolar modo, Crete Senesi e Gubbio in Umbria. Oggi invece si sentono anche nuove realtà, ad esempio Muzzana in Friuli, abbiamo sentito le colline di Reggio Emilia, ma ce ne sono tante. Cosa è successo? Ma è successo che molto probabilmente tutti i territori hanno cominciato a muoversi per farsi conoscere e comunque insomma, il valore del tartufo ha invitato un po' tutti a cercarlo con maggiore attenzione. È una grande fortuna per noi, secondo me dobbiamo lavorare molto per il tartufo made in Italy. Il tartufo bianco d'Alba in realtà è un brand nazionale, non è un brand cittadino. Ad Alba città insomma, ci sono due giardini pubblici che fanno qualche tartufo, ecco, non è che possiamo campare con quello. Certo. Sicuramente è necessario valorizzare il più possibile il tartufo bianco d'Alba inteso come tartufo italiano, non solo perché è più buono di quello che può nascere oltre Cortina. La verità è che se nasce vicino viene conservato meglio, con più sapienza e con più rapidità arriva sul mercato e quindi si garantisce una qualità migliore. I tartufi che si trovano da noi sono i tartufi più buoni innanzitutto perché c'è più sapienza e più consapevolezza del prodotto. Bene, grazie a Mauro Carbone. Infatti mi è arrivata subito un'email: per chi conosce il fricco friulano con patate da provare con il tartufo, e quindi come dicevo prima, sicuramente questo diciamo Vittorio si chiama, questo SMS si riferiva probabilmente a quest'area della Friuli dove è stato ultimamente c'è tartufo. Sentiamo Rodolfo da Vercelli, velocemente Rodolfo. Sì, buongiorno, velocissimo. Ogni tanto ascolto la vostra trasmissione e so di essere fuori concorso per quanto riguarda le ricette col tartufo, però propongo due ricette, una mia, una di un mio amico che ha un ristorante anche in un certo senso stellato, e sono due ricette di tartufi applicati ai dolci. La mia rapidamente è uno zabaione caldo, ovviamente abitando in Piemonte mi riferisco a una tradizione culinaria piemontese, con barolo chinato e sopra delle scagliette di tartufo bianco, semplicissima da realizzare. Grazie Rodolfo, però io invito questi radioascoltatori che ci danno queste ricette, mandatele le ricette, poi dopo vi darò ancora l'annuncio con tutti i riferimenti. Grazie a Mauro Carbone, linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sulla parte finale, ma prima di passare a un altro nostro ospite, io vi ricordo, la prossima settimana l'argomento, diciamo il prodotto da inserire nelle vostre ricette che dovrà essere presente è il panettone. Ho già detto che può essere il panettone, diciamo, come dolce natalizio da servire come dessert e quindi con una serie di combinazioni, però può essere anche delle invenzioni da inserire nelle ricette. Allora, tra le prime 50 che arriveranno ne sceglieremo 3. E le commenteremo sabato prossimo con uno chef qui in studio. I 3 ascoltatori selezionati riceveranno ognuno una bottiglia di Magnum Franciacorta di OCG, oltre ai consigli in onda dei nostri chef. Le ricette migliori inoltre saranno pubblicate sul sito www.radio24.it. Ve lo ripeto, l'argomento per la prossima settimana è il panettone e l'indirizzo è gastronauta@radio24.it, ma ricordatevi di mettere il numero di telefono perché altrimenti anche questa volta Luca Colombini, che ha mandato una delle 3 ricette che hanno vinto, non riusciamo a collegarci. Allora, caro Andrea, tu hai letto dovrai commentare Faraone in castagna e tartufo di Luca Colombini, che ha vinto. Beh, senz'altro una bellissima ricetta. Innanzitutto inizierei a sconsigliare l'uso del tartufo nel ripieno, in quanto il tartufo, si sa, è molto volatile come sapore. E quindi non 25 grammi, ecco, 25 grammi di tartufo per una farona intera non si sentirebbe il sapore e quindi lo eviterei totalmente. È buona la ricetta, con sapori che appartengono alla tradizione. Ecco, vorrei sapere le spezie che avrebbe usato per la marinatura. Non ne metterei tante, concentrerei forse più il ristretto, perché appunto il ristretto dà proprio un sapore quasi di noce, e quindi non metterei spezie nel... Bene, caro Luca, tu avrai perso questi consigli e magari potevi chiedere anche altri, ma abbiamo con noi ora, dulcis in fundo, Andrea Alciati del notissimo ristorante Guido da Costigliole, e quindi credo che sia sempre stato anche per i ristoranti della famiglia un po' il punto di riferimento del tartufo nelle Langhe. Ma Andrea è un grande esperto di vino e voglio chiedere, appunto, visto che siamo in finale, anche se abbiamo ancora molte telefonate, voglio chiedere ad Andrea quali sono i vini consigliati. per abbinamento. È vero, ci sono piatti molto diversi l'uno dall'altro, Andrea, però diciamo sulla tradizionalità, quindi il risotto, la carne cruda, l'uovo, ecco, quali vini tu consigli? Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, ben ritrovato. Allora, dunque, sì, come dicevi tu, le varianti sono molteplici, iniziando dall'antipasto classico che è la battuta di fassone piemontese. Io abbinerei un dolcetto, un Dogliani DOC, che è un po' più fruttato, con meno tannini, quindi anche su un piatto freddo e non caldo sicuramente fa risaltare di più il tartufo. Dopodiché su invece i piatti classici cardi, come i cardi gobbi di Nizza, andrei su una Barbera d'Asti, e qui sceglierei una Barbera proprio della zona di Nizza, di Vinchio, che quindi si sposerebbe benissimo con quel piatto. E sui primi, quindi sulle classiche tagliatelle, sui cacci di tagliarini e sul risotto, andrei su invece un Nebbiolo, e quindi poi lascerei scegliere, diciamo, al cliente se preferisce più l'eleganza di un Nebbiolo del Roero o più la potenza e i tannini di un Barbaresco o di un Barolo addirittura. Bene, rimani con noi perché voglio sentire Francesco da Pisa. Buongiorno Francesco. Ciao, ciao. Senti, no, velocemente, volevo ricordare innanzitutto, io sto a Pisa e quindi volevo ricordare il tartufo bianco di San Miniato. Certo, certo. Pregiato. Però da noi la tradizione è sempre stata del tartufo nero, almeno in casa mia. Quindi volevo ricordare una ricettina in abbinamento con l'acciuga, come ricordavi prima. di far sciogliere praticamente uno spicchio d'aglio insieme a mezza acciuga di salata in olio caldo, senza farlo chiaramente cuocere, bollire, e poi grattarci del tartufo nero, dell'ottimo tartufo nero, e con questo sughetto leggermente aggiungendo un po' di sale condirci poi la pasta, sicuro che è fantastico. Bene, grazie Francesco. Sentiamo Mario da Cuneo. Buongiorno Mario. Bene, Mario è scomparso, è andato, ma voglio leggere, ci sono tantissimi sms che ci danno dei consigli, e uno interessante, te lo leggo Andrea, vediamo cosa ne pensi. Tartufo bianco sopra il gelato fior di latte artigianale. Bellissimo. No. Sì, ogni tanto lo proviamo anche noi, come anche... Ah, è ricomparso, scusi, lei è Mario da Cuneo, si è ricomparso? Pronto Mario? Pronto? Ah, pronto, no, Andrea, ti avevo chiesto. Ah, sì. Sono due Andrea. Andrea è qui in studio. No. Congelato. L'abbinamento è bellissimo. Io aggiungerei un po' di miele di acacia, un po' di miele di castagno col tartufo bianco e dovrebbe essere fantastico. Andrea Alciati, invece, eccolo qua. Andrea. Andrea Alciati lo serve anche col gelato, al filo di latte, ma anche alle volte con lo zabaione caldo, visto che c'è l'uovo che esalta il sapore del tartufo... Si può anche fare così, ecco. Senti Andrea, visto che abbiamo sentito i piatti più, diciamo, svariati, anche con molti sms dice ma sono stravaganti, voglio chiederti, tu che sei, cioè, un ristorante tradizionalista e diciamo che fa piatti della tradizione, c'è qualche piatto, diciamo, che in questi anni hai creato nel tuo ristorante con il tuo chef particolare? Sì, guarda, allora, noi abbiamo fatto, pur stando nella tradizione, abbiamo fatto un uovo particolare che viene cotto in forno a bassa temperatura e poi viene impanato e gratinato di nuovo in forno, quindi rimane come una milanese, un uovo fatto alla milanese, dove poi il rosso ovviamente è liquido e si può mettere il tartufo dentro, richiudendolo, questo si scalda e veramente esprime tutto il meglio di sé. Grazie. Più sulla stravaganza, facciamo scampi, salsa di acciughe e tartufo, per richiamare anche il tuo ospite di prima. Bene, l'acciuga richiama. Mario da Cuneo, che è ricomparso, 30 è ricaduto, niente da fare. Allora ci avviamo alla conclusione. Io mi spiace molto per Enrico Ferrario e l'altro ospite Luca Colombini, per le due ricette. Io prego la prossima volta di mettere il numero di telefono, quindi chiudiamo questa trasmissione con il tartufo, magari il tartufo all'uovo, chi non lo vuole con le acciughe. Io ringrazio Isotta Scena in redazione, con Anita Ariotti e Peter Bescafè in regia. Un caro saluto da Davide Paolini e un buon weekend. Grazie Andrea. Ciao, grazie.